Terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Dopo la catastrofe del fallito rapimento di Natasha da parte di Anatole, Pierre si mette a cercare il cognato e gli ordina, una volta trovatolo, di lasciare Mosca. Frattanto è rientrato in città Andrei, che Pierre incontra trovandolo gelido e sprezzante. Questi lo prega di restituire a Natasha le sue lettere e cambia argomento. Non si turba neanche alla notizia del tentato suicidio della ragazza. Col finire del 1811 cominciò l'armamento intensivo e il concentramento delle forze dell'Europa occidentale, e nel 1812 queste forze, milioni di uomini, si mossero da occidente verso oriente, verso le frontiere della Russia. Il 12 giugno le forze dell'Europa occidentale varcarono le frontiere della Russia e cominciò la guerra, cioè si compì un fatto contrario alla ragione umana e a tutta la natura umana. Milioni di uomini commisero gli uni contro gli altri così innumerevoli malefici, inganni, tradimenti, rapine, falsificazioni, saccheggi, incendi ed assassini, quanti per secoli interi non ne raccoglierebbero gli annali di tutti i tribunali del mondo, e che in quel periodo di tempo la gente che li commise non considerò come delitti. Che cosa produsse questo avvenimento insolito? Quali furono le sue cause? Gli storici, con ingenua sicurezza, dicono che le cause di questo fatto furono l'offesa recata al duca di Oldenburgo, l'inosservanza del blocco continentale, l'ambizione di Napoleone, la fermezza di Alessandro, gli errori dei diplomatici, eccetera, eccetera, eccetera. Per noi è incomprensibile che milioni di cristiani si siano uccisi e torturati a vicenda perché Napoleone era ambizioso, Alessandro era fermo, la politica dell'Inghilterra era astuta e il duca di Oldenburgo era stato offeso. È impossibile comprendere quale legame abbiano queste circostanze col fatto stesso dell'assassinio e della violenza, perché l'offesa fatta al duca abbia portato per conseguenza che migliaia di persone venute dall'altra estremità dell'Europa abbiano ucciso o rovinato gli abitanti delle province di Smolensk e di Mosca e siano state uccise da loro. Il fatalismo nella storia è indispensabile per spiegare le manifestazioni irrazionali, cioè quelle delle quali non comprendiamo la razionalità. Quanto più ci sforziamo di spiegare razionalmente questi fenomeni storici, tanto più irragionevoli e incomprensibili essi divengono per noi. Ogni uomo vive per sé, gode della libertà per raggiungere i suoi fini personali e sente con tutto l'essere suo che può immediatamente fare o non fare una data azione. Ma non appena egli l'ha fatta, quest'azione, compiuta in un dato momento di tempo, diventa irreparabile. Viene a far parte della storia, nella quale essa non ha più un significato libero, ma un significato predeterminato. In ogni uomo vi sono due aspetti della vita. La vita personale, che è tanto più libera quanto più astratti sono i suoi interessi, e la vita elementare, la vita di sciame, dove l'uomo obbedisce inevitabilmente a leggi che gli sono prescritte. L'uomo vive consciamente per sé, ma serve come strumento inconscio per il conseguimento dei fini storici dell'umanità in generale. L'atto compiuto è irreparabile e il suo effetto, coincidendo nel tempo con quello degli atti di milioni di uomini, assume un significato storico. Quanto più in alto sta l'uomo sulla scala sociale, a quante più persone egli è legato, quanto più potere ha su altri uomini, tanto più evidenti sono la predeterminazione e la necessità di ogni suo atto. Il cuore del re è nella mano di Dio. Il re è schiavo della storia. La storia, cioè la vita incosciente e comune, la vita di sciame dell'umanità, si avvantaggia per sé di ogni momento della vita dei re, come di un mezzo per raggiungere i propri fini. E così il 29 maggio Napoleone parte da Dresda e porta il suo esercito verso Oriente. L'imperatore di Russia intanto è a Vilna, dove riceve la notizia che Napoleone è entrato in Russia senza dichiarazione di guerra. Scrive dunque a Napoleone offrendogli la possibilità di ritirarsi, ma in caso contrario lo informa di vedersi costretto a respingere l'attacco con la forza. E Napoleone rifiuta di ritirarsi. La guerra imminente interferisce nei destini dei nostri personaggi. Anatol Kuragin raggiunge l'esercito in Moldavia. Nikolaj Rostov, che viene promosso capitano, raggiunge il suo reggimento in Polonia. Andrei Balkonski viene inviato da Kutuzov in Turchia. Ma prima di partire, il principe Balkonski passa da Lisia Gori. Egli rientrò nel viale e poi varcò il portone di pietra della casa di Lisia Gori, come se entrasse in un castello incantato e dormiente. La stessa gravità, la stessa pulizia, lo stesso silenzio erano in quella casa, gli stessi mobili, le stesse mura, gli stessi rumori, lo stesso odore, gli stessi visi timidi, soltanto un poco invecchiati. La principessina Maria era sempre la stessa ragazza timida, brutta, che invecchiava giorno per giorno e passava gli anni migliori della sua vita in paure e in eterne sofferenze morali, senza utilità e senza gioia. La Bourienne era sempre quella stessa ragazza civettuola e contenta di sé, che godeva allegramente di ogni minuto della sua vita, piena delle sue più liete speranze. Era solo diventata più sicura, per quel che parve al principe Andrei. Il precettore de Sal, che egli aveva condotto dalla Svizzera, era vestito di un soprabito di taglio russo, parlava russo coi domestici, storpiando la nostra lingua, ma era sempre lo stesso educatore di limitata intelligenza, istruito, virtuoso e pedante. Il vecchio principe non aveva nel suo fisico altro cambiamento se non questo, che all'angolo della bocca si notava la mancanza di un dente. Moralmente era sempre lo stesso di prima, ma soltanto più collerico, più diffidente di tutto ciò che accadeva nel mondo. Soltanto Nikolushka era cresciuto, cambiato, s'era fatto colorito, aveva dei folti capelli scuri ricciuti e, senza saperne lui stesso il perché, ridendo e giocando, alzava il labbruzzo superiore della bella bocchina proprio come lo sollevava la defunta piccola principessa. Lui solo non obbediva alla legge dell'immobilità in quel castello incantato e dormiente. E così, lasciata Lisia Gori, il principe Andrei giunge al quartiere generale dell'esercito alla fine di giugno. E quando l'imperatore gli chiede dove vuole essere destinato, egli risponde di voler servire direttamente nell'esercito di linea. Noi però adesso lasciamo il principe Andrei e ci rivolgiamo invece alle vicende di Nikolaj Rostov. Il 13 luglio, per la prima volta, il reggimento di Pavlograd si trovò impegnato in un'azione seria. Due squadroni del reggimento stavano al bivacco nei campi di Segala, già coperti di spighe e tutti calpestati dal bestiame e dai cavalli. La pioggia venne giù a catinelle e Rostov, con un giovane ufficiale suo protetto, Ilin, se ne stava in una capannuccia costruita alla svelta. Un ufficiale del loro reggimento, con dei lunghi baffi che gli oltrepassavano le gote, dopo essere andato al comando ed essere stato sorpreso dalla pioggia, entrò da Rostov. «Conte, vengo dal comando. Avete saputo l'azione eroica di Rajewski?» E l'ufficiale raccontò i particolari del combattimento di Saltanovka che aveva sentiti al comando. Rostov, contorcendo il collo dove gli entrava l'acqua, fumava la pipa e ascoltava distrattamente, guardando ogni tanto il giovane ufficiale, Ilin, che gli si stringeva accanto. Quest'ufficiale, un ragazzo di 16 anni, da poco arrivato al reggimento, aveva ora con Nikolaj quelle medesime relazioni che Nikolaj, 7 anni prima, aveva avute con Denisov. Ilin si sforzava di imitare in tutto Rostov ed era innamorato di lui come una donna. L'ufficiale dai lunghi baffi, Zdrinsky, raccontò con enfasi che la diga di Saltanovka era stata come le Termopili russe e che il generale Rajewski aveva compiuto su quella diga un atto degno dell'antichità. Zdrinsky raccontò l'atto di Rajewski che, sotto un terribile fuoco, aveva condotto i suoi due figli sulla diga e, avendoli al suo fianco, s'era buttato all'attacco. «Non ne posso più», disse Ilin, essendosi accorto che il racconto di Zdrinsky non piaceva a Rostov. Le calze, la camicia e dove sto a sedere, tutto mi gocciola. Vado a cercare un asilo. Mi pare che la pioggia diminuisca. Ilin uscì e Zdrinsky se ne andò. Dopo 5 minuti Ilin, guazzando nel fango, si avvicinò di nuovo alla capannuccia. «Rostov, andiamo, presto! Ho trovato, là, a 200 passi, c'è una locanda. I nostri sono già là. Almeno ci asciugheremo e c'è anche Maria Genrikhovna». Maria Genrikhovna era la moglie del dottore del reggimento, una tedesca giovane e belloccia, che il dottore aveva sposata in Polonia. Il dottore, o perché non aveva mezzi, o perché non voleva nei primi tempi del matrimonio separarsi dalla giovane moglie, la conduceva dappertutto con sé dietro al reggimento degli Ussari, e la gelosia del dottore era diventata il soggetto abituale degli scherzi fra gli ufficiali degli Ussari. Rostov si gettò la mantellina sulle spalle, gridò a Lavrushka di seguirlo con le sue robe e andò con Ilin, ora scivolando nel fango, ora sguazzando sotto la pioggia che scemava, nel buio della sera, rotto di tanto in tanto da lampi lontani. «Rostov, dove sei? Qui! Che lampo!» si dicevano l'un l'altro. Rostov, in guerra, si permetteva la libertà di montare non un cavallo d'ordinanza, ma un cavallo cosacco. Conoscitore e amatore com'era, s'era procurato da poco un focoso cavallo del Don, un sauro a criniera bianca, grosso e buono, sul quale poteva sfidare chiunque. Montare quel cavallo era un piacere per Rostov. Pensava al cavallo, alla mattinata, e non una volta pensò al pericolo imminente. Prima Rostov, quando andava al fuoco, aveva paura. Ora non provava neppure il minimo senso di timore. E non provava timore non perché fosse abituato al fuoco, non ci si abitua mai al pericolo, ma perché aveva imparato a dominare l'animo suo dinanzi al pericolo. Aveva preso l'abitudine, andando al fuoco, di pensare a tutto fuorché a ciò che doveva sembrare più importante di ogni altra cosa, il pericolo imminente. Per quanto si sforzasse e si rimproverasse la sua vigliaccheria, nei primi tempi del suo servizio non c'era riuscito. Ma ora, con gli anni, la cosa era venuta da sé. Cavalcava adesso accanto a Ilin, fra le due file di betulle, e di tanto in tanto strappava qualche foglia dai rametti che gli capitavano sotto la mano, o col piede sfiorava la pancia del cavallo, o, senza voltarsi, tendeva la pipa spenta all'ussero che gli veniva dietro, con l'aspetto tranquillo e spensierato che avrebbe avuto andando ad una passeggiata. Gli faceva pena vedere il viso sconvolto di Ilin, che parlava molto e con agitazione. Conosceva per prova quel tormentoso stato di attesa della paura e della morte nel quale si trovava il ragazzo, e sapeva che niente, tranne il tempo, avrebbe saputo venirgli in aiuto. Appena il sole si mostrò in uno spazio libero, di sotto alle nuvole, il vento si quietò, come se non osasse guastare quella bella mattinata d'estate, dopo la bufera del giorno innanzi. Tutto si illuminò e rifulse, e insieme a quella luce, come per risponderle, si udirono innanzi dei colpi di cannone. Rostov non ebbe il tempo di riflettere e calcolare la distanza di quei colpi, che giunse al galoppo da Vitebsk l'aiutante del conte Osterman Tolstoi, con l'ordine di mettersi al trotto per la strada. Lo squadrone passò innanzi alla fanteria e all'artiglieria, che anch'esse si affrettavano, passò sotto ad una collina e, traversando un villaggio vuoto di abitanti, risalì di nuovo ad un'altura. I cavalli erano sudati e gli uomini tutti rossi. Rostov spinse il cavallo, galoppò innanzi allo squadrone e, prima che avesse il tempo di comandare il movimento, già tutto lo squadrone, che aveva provato il suo stesso sentimento, si muoveva dietro a lui. Rostov stesso non sapeva come e perché avesse fatto ciò. Fece tutto questo come faceva a caccia, senza pensare, senza riflettere. Vedeva che i dragoni erano vicini, che galoppavano in disordine, sapeva che non avrebbero resistito, sapeva che c'era soltanto un momento che non sarebbe tornato se si lasciava sfuggire. Le palle gli fischiavano e stridevano intorno così eccitanti, il cavallo si buttava innanzi con tanto ardore che egli non poteva trattenerlo. Lanciò il cavallo, diede il comando e nello stesso istante udì dietro di sé il calpestio del suo squadrone spiegato e al gran trotto e cominciò a scendere verso i dragoni ai piedi dell'altura. Appena furono ai piedi dell'altura, involontariamente il loro trotto diventò un galoppo che si faceva sempre più rapido a misura che si avvicinavano agli ulani e ai dragoni francesi che li inseguivano. I dragoni erano vicini. Quelli delle prime file, vedendo gli ussari, fecero volta faccia. Quelli di dietro si fermarono. Con lo stesso sentimento col quale aveva tagliato la strada al lupo, Rostov, lanciato a tutta carriera il suo cavallo del Don, correva per tagliare la strada ai dragoni francesi che avevano rotto le file. Un ulano si fermò. Un soldato appiedato si buttò in terra per non essere schiacciato. Un cavallo senza cavaliere fuggì in mezzo agli ussari. Quasi tutti i dragoni francesi galoppavano indietro. Rostov, avvistandone uno su di un cavallo grigio, si mise ad inseguirlo. Passando, urtò in un cespuglio. Il suo buon cavallo lo fece passare attraverso e appena raddrizzatosi in sella, Nicolai vide che fra pochi istanti avrebbe raggiunto quel nemico che si era scelto come bersaglio. Quel francese, probabilmente un ufficiale a giudicare dall'uniforme, galoppava curvo sul suo cavallo grigio, spingendolo innanzi con la sciabola. Dopo un istante il cavallo di Rostov urtò col petto la groppa del cavallo dell'ufficiale e per poco non lo fece stramazzare, e in quello stesso momento Rostov, senza sapere perché, alzò la sciabola e colpì il francese. Nell'istante in cui faceva questo, tutta l'animazione di Rostov ad un tratto sparì. L'ufficiale cadde non tanto per il colpo di sciabola che l'aveva solo ferito leggermente al braccio, sopra al gomito, quanto per l'urto del cavallo e per la paura. Rostov, trattenendo il cavallo, cercò con gli occhi il suo nemico per vedere colui che egli aveva vinto. L'ufficiale dei dragoni francesi batteva la terra con un piede, mentre l'altro era preso nella staffa. Spaventato, sbattendo le palpebre, come se aspettasse da un momento all'altro un secondo colpo, corrugando il viso con un'espressione di terrore, guardava in su, verso Rostov. Il suo viso giovanile, pallido e spruzzato di fango, con una fossetta sul mento, coi capelli biondi, con due lucenti occhi celesti, non pareva il viso di un uomo sopra un campo di battaglia, di un nemico, ma il più normale viso incontrato in una camera qualunque. Anche prima che Rostov potesse decidere che cosa fare di lui, l'ufficiale gridò: «Mi arrendo!». La fanteria francese correva più avanti, sparando. Gli usseri galopparono indietro, frettolosi coi loro prigionieri. Rostov galoppava indietro con gli altri, provando un certo senso di disgusto che gli stringeva il cuore. Qualcosa di oscuro, di confuso, che egli stesso non sapeva spiegarsi, gli si era rivelato mentre prendeva prigioniero quell'ufficiale e già prima mentre lo colpiva. Ma mentre Nicolai rimuginava fra sé questi problemi e non sapeva trovare una risposta chiara a ciò che lo aveva tanto turbato, nella sua carriera la ruota della fortuna, come spesso accade, girava a suo vantaggio. Ebbe una promozione. Gli diedero un battaglione di usseri e, quando occorreva un ufficiale ardito, si servivano di lui. Ricevuta la notizia della malattia di Natascia, la contessa, che ancora non stava bene ed era molto debole, partì per Mosca con Petia e con tutta la gente di casa. E tutta la famiglia Rostov si trasferì da quella di Maria Dmitrievna nella sua propria casa e si stabilì definitivamente a Mosca. La malattia di Natascia era talmente seria che, per fortuna sua e dei genitori, il pensiero di tutto ciò che era stato causa della sua malattia, la sua condotta e la rottura col fidanzato, passò in seconda linea. Era così ammalata che era impossibile pensare quanta parte di colpa ella avesse avuto in tutto l'accaduto. Mentre non mangiava, non dormiva, smagriva notevolmente, tossiva e, come facevano capire i dottori, era in pericolo. Bisognava pensare soltanto al modo di curarla. I medici venivano da Natascia, soli o in consulto, parlavano a lungo in francese, in tedesco e in latino, si criticavano l'uno con l'altro, prescrivevano i rimedi più diversi per tutte le malattie che conoscevano, ma neppure a uno di loro veniva in mente la semplice idea che la malattia di cui soffriva Natascia non poteva essere loro nota, come non può essere nota nessuna delle malattie da cui è colpito ogni uomo vivo. Ogni uomo vivo, infatti, ha le sue particolarità e ha sempre una malattia speciale e sua propria, nuova, complicata, sconosciuta alla medicina. Non una malattia dei polmoni, del fegato, della pelle, del cuore, dei nervi o simili, descritta nei trattati di medicina, ma una malattia che consiste in una speciale combinazione delle sofferenze di questi organi. Questa semplice idea non poteva venire in mente ai dottori, poiché tutta l'occupazione della loro vita consisteva nel curare, poiché per questo ricevevano del denaro e poiché in quell'occupazione avevano speso gli anni migliori della loro vita. Ma soprattutto questa idea non poteva venire in mente ai dottori perché essi credevano di giovare indubbiamente, e difatti giovavano, a tutti della famiglia Rostov. Giovavano non perché obbligassero la malata a ingoiare delle sostanze per lo più nocive, ma erano utili, necessari, indispensabili perché soddisfacevano un bisogno morale della malata e delle persone che volevano bene alla malata. Soddisfacevano quell'eterno bisogno umano di sperare in un sollievo, quel bisogno di simpatia e di azione che prova l'uomo quando soffre. Che avrebbero fatto Sonia, il conte e la contessa, stando lì a guardare senza far nulla, se non ci fossero state quelle pillole a quelle date ore, quelle bevande tiepide, quelle polpette di pollo e tutti quei particolari della vita che il dottore prescriveva e la sorveglianza dei quali formava l'occupazione e la consolazione di quelli che circondavano l'inferma? Come avrebbe sopportato il conte la malattia della sua figliola prediletta se non avesse saputo che la malattia di Natascia gli costava migliaia di rubli e che non ne avrebbe risparmiate altre migliaia pur di recarle giovamento? Se non avesse saputo che nel caso di un peggioramento avrebbe speso ancora altre migliaia di rubli per condurla all'estero e riunire laggiù altri medici a consulto? Che avrebbe fatto la contessa se non avesse potuto ogni tanto bisticciare con Natascia ammalata perché non seguiva interamente le prescrizioni del medico? «Non guarirai mai», diceva, dimenticando nella stizza il suo dolore, «se non obbedirai al dottore e se non prenderai le medicine a tempo. Non c'è da scherzare quando ti può venire una pneumonia», diceva la contessa, e nel pronunziare questa parola, di cui non era lei sola a non capire il senso, trovava già un gran conforto. Che avrebbe fatto Sonia se non avesse avuto la consolante coscienza d'aver passato al principio della malattia 3 notti senza spogliarsi per essere pronta ad eseguire a puntino tutti gli ordini del dottore e adesso di non dormire la notte per non lasciar passare l'ora nella quale bisognava dare le quasi innocue pillole della scatola dorata? E la stessa Natascia, benché dicesse che non c'era medicina capace di guarirla e che erano tutte sciocchezze, era contenta anch'essa di vedere che per lei si facevano tanti sacrifici e di dovere prendere le medicine alle ore fissate. E le faceva anche piacere, trascurando di obbedire alle prescrizioni del medico, poter mostrare che non credeva alla medicina e non teneva alla vita. Tuttavia, malgrado la mancanza dell'abituale vita della campagna, i dottori dicevano che non si poteva lasciare la malata senza assistenza medica e perciò la trattennero nell'aria soffocante della città. La gioventù ebbe il sopravvento. Il dolore di Natascia cominciò ad essere ricoperto dalle impressioni della vita di ogni giorno. Cessò di gravarle sul cuore in modo così tormentoso. Esso diventava un passato e Natascia cominciò a rimettersi fisicamente. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi musicata da Paolo Terni. A cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.